No, ma la situazione è drammatica nel senso che se qualcuno di voi conosce la legge obiettivo, no? Questa legge che il ministro Lunardi, governo Berlusconi, ha fatto questa legge obiettivo nel 2001 per poter fare legge obiettivo per poter fare le grandi opere. E nella legge obiettivo c'era un elenco di grandi opere che dovevano essere realizzate perché erano strategiche per lo sviluppo del paese. E c'era dentro anche la nostra, cioè la nostra tangenziale era una di quelle della legge obiettivo. Il decreto sblocca Italia è 10 volte peggio della legge obiettivo, perché la legge obiettivo valeva per le infrastrutture. TAV, Ponte di Messina, autostrada Malpensa, cioè per le infrastrutture. Lo sblocca Italia vale per tutto. Cioè, lo sblocca Italia, trivellazioni, quindi Mar Adriatico, Basilicata, Abruzzo, tutto. Qua c'è anche Nicola che viene da quelle terre, quindi no, ci sono movimenti da anni che lottano, c'è il Comitato Coordinamento Nazionale, Comitati NoTrIV, che si oppone in zone bellissime del nostro paese contro appunto la devastazione ad opera delle trivellazioni per andare a cercare questo oro nero. Nello sblocca Italia c'è la legge obiettivo per fare le trivellazioni, cioè una volta individuato qualcosa da fare. E partono le procedure che azzerano la partecipazione dei cittadini, non c'è nessun parere da parte di nessuno, c'è già l'esproprio, vincolo preordinato e vai, no? Senza possibilità di opporsi. Diventano cose strategiche con i militari, con i inceneritori, lo sblocca Italia, c'è anche stesso procedimento. Bisogna risolvere il problema della gestione dei rifiuti nel nostro paese perché siamo indietro, perché e allora per fare una rete di inceneritori come si deve, per risolvere il problema, si va con legge obiettivo, senza possibilità di i comitatini, l'aveva detto Renzi, in Italia non si fanno le cose perché ci sono i comitatini. Ecco, lo sblocca Italia ammazza i comitatini. E poi ci sono tutte le infrastrutture che conosciamo, autostrade, cercano anche di porre un rimedio a qualcosa che non era più sostenibile. La Orte Mestre, autostrada, 400 km, 10 km, 10 miliardi di euro, praticamente il raddoppio dell'Adriatica, quindi sali su da Orte, vai sul proprio dritto, no? Arrivi poi vicino a Ferrara, fino a Mestre. Quella non era sostenibile, quell'autostrada. Non bastavano i soldi perché era in project financing. Comunque non bastava, la Corte dei Conti l'aveva bocciata. Nello sblocca Italia hanno messo una clausolina in base alla quale per la Orte Mestre si può fare la defiscalizzazione, c'è la defiscalizzazione, quindi non paga praticamente l'IVA, 2 miliardi di euro che noi non incassiamo come Stato, e quindi il progetto riprende proprio dentro lo sblocca Italia e lì si andrà a devastare uno dei territori più. Il TAP, non so se qualcuno di voi ha sentito parlare del TAP, di questo tubo che deve portare il gas in Italia e approda a Marina di Melendugno, che qualcuno conosce il Salento, ha presente Torre dell'Orso, Otranto. Lì arriva il TAP, questo tubone, gasdotto, sblocca Italia. Silenzio ha senso. Silenzio, in Italia il silenzio ha senso, ha cercato di introdurlo Berlusconi un sacco di volte, ci ha provato anche Prodi, c'è sempre stata mobilitazione. Adesso nello sblocca Italia si reintroduce il meccanismo del silenzio ha senso per l'edilizia. Ed era una cosa che è sempre stata bloccata perché in base alla Costituzione non esiste silenzio assenso, cioè perché è tutelato dall'articolo 9 di cui si parlava prima, perché il paesaggio va, appunto, tu non è che puoi dire va che faccio una villetta in zona protetta, in area archeologica ad Agrigento, puoi dire no, fate lo stesso, abusive, no? Però faccio la Villettopoli nel Parco del Ticino. Silenzio assenso, nessuno mi risponde, lo faccio, no? trasformare una chiesa in una discoteca, lo puoi fare, tanto se ci non c'è niente di male. Io sono lo sapevo, aspettavo Messi che rispondeva, infatti ho fatto l'esempio apposta, aspettavo di essere attento, se era sveglio Messi. Grande Messi. Quindi il governo del 41%. Sta facendo le cose peggiori che neanche Berlusconi è riuscito a fare. Forse io credo che la base non sia a conoscenza di tutto questo. La maggior parte della gente che incontriamo, almeno così con cui io parlo normalmente, non è a corrente di tutte queste cose che voi state dicendo questa sera. Cioè c'è proprio silenzio assoluto riguardo... Poi si trovano di fronte alle cose già fatte e allora lì suscitano un po' di perplessità, di malumori, ma ormai le cose sono andate, sono passate, cioè sarebbe adesso il momento di sensibilizzare, di informare le persone di tutto quello che sta avvenendo, no? Io gliel'ho mandato a Fabio Fazio il libro. Se mi chiamano da Fabio Fazio, ma secondo me non mi chiamano. Più facile che chiamino. E poi se tornando agli agricoltori, cioè gli agricoltori che conosco io, che sono diversi e hanno ettari e ettari di terreno, grazie a quelle sovvenzioni, finanziamenti che hanno ricevuto negli anni passati, nelle epoche d'oro. Hanno comprato fior di macchinari, terreni agricoli con niente, eccetera. Vai a toccare un ettaro della loro terra, come si incazzano. Vedi, cioè se li costruiscono, li passano o gli espropriano un pezzo del loro terreno. No, infatti ci sono su quello. Il problema è che poi se arriva uno che vuole fare il benzinaio, è probabile che glielo vendano. Questo ad esempio, racconto questa cosa che non so se l'ho mai raccontato, quando ero sindaco a Casinetta. La cosa più brutta che mi è capitata, cioè la delusione più grande che ho avuto, è stata quando in piena battaglia non tangenziale, quindi mi è arrivata la lettera della Tamoil, che mi diceva, che chiedeva di poter fare il distributore di benzina a Cassinetta di Lugagnano. Dentro nel percorso. Nel percorso, cioè l'autostrada che passa, e quindi la Tamoil già stava programmando gli autogrill e cose. È arrivata la lettera della Tamoil che diceva voglio fare il coso, l'autogrill, già con l'agricoltore che aveva dato... Okay. Lì ho detto, cazzo, qui abbiamo manifestazioni con gli agricoltori, contro la tangenziale, contro la cosa, carabinieri sotto il balcone del sindaco di Abbiategrasso, cioè... battaglia pesante così, e poi gli agricoltori sono andati là, una delle sette sorelle le ha detto qua passa l'autostrada, no? Sensatina d'occhio, poi pensione per tutta la vita, no? Quindi c'è questo perché giochetto quindi, vabbè, c'è, è il gioco, è il gioco, cioè, se c'è il ricatto del lavoro per noi comuni mortali, per gli imprenditori e per chi è, cioè il discorso di mettere a frutto il tuo patrimonio, cioè. Non ci perdi nulla, poi perché incontri baratto, no? Tu mi dai il terreno, certo. Io ti... poi non sono tutti così, cioè, fortunatamente no, sì. Però ad esempio una cosa, cioè, sull'agricoltura andrebbe fatto un ragionamento grande, perché no, quando tu dicevi gli agricoltori, guai chi gli tocca la terra, guai. Io ho visto da noi si sono arrabbiati tantissimo quando gli hanno via un pezzo di terreno, che ne so, per allargare il cimitero piuttosto che per costruire la scuola, eccetera. Cioè ancora adesso ce l'hanno in gola questa cosa, questo rospo. Quindi è per quello che mi faccio queste domande, no? Fare queste opere così allo sbaraglio, senza che nessuno possa protestare o faccia sentire la propria voce.